sole splende alto sui monti e nella giungla il mormorio sveglierà, che sveglierà tutti gli abitanti. Che melodia il picchio che picchia e la peconi suo ronzio cresce già. Questo folle ritmo. Non puoi andartene alla giungla, il tuo cuore resta qui. Ti cattura il suono della natura, cambia ogni giorno che avventura. La mia realtà è una vita in libertà, fa per me questo folle ritmo. Questo folle ritmo. Su, avanti! Nessuno resiste a questa sinfonia e la monotonia non torna più. Se sei un po' triste, questo ti aiuterà. Dai, battiamo le zampe, fai come noi! Lascia andare, fai ciò che vuoi! Cra, cra, sì, così! Senti già questo folle ritmo. In lontananza qualche lulato è arrivato fin qua giù. Crescerà questo folle ritmo. Non puoi andartene via dalla giungla, il tuo cuore resta qui. Ti cattura il suono della natura, cambia ogni giorno che avventura. La mia realtà è una vita in libertà e fa per me questo folle ritmo. Questo folle ritmo. Questo folle ritmo. Questo folle ritmo. Questo folle ritmo.